Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15 in simultanea su Wombat, Onda Rossa, Neanderthal, Eustachio, Quar, Blackout, Spore. Buonasera a tutte e tutti, bentrovati a una nuova puntata del Ponte Radio in quota Radio Wombat questa volta, e torniamo a parlare del Sahrawi. Già lo avete sentito sempre sul Ponte Radio delle Radio Sorelle, quanto sono belle, e ritorniamo a parlare del Sahrawi questa volta per non solo per raccontare quello un po' che sta succedendo in generale, ma qualcosa che succederà, quindi siamo molto contenti. E diamo il benvenuto a come definirvi? compagni, sicuramente compagni amici di Radio Wombat e della Casa Sahrawi. Ciao. Buonasera. Benvenuti, buonasera. E qui accanto a me il buon Mario. Presente, caro Tuco, presente. C'ero la scorsa volta, ci sono ancora. Esatto. La coppia pare del Sahrawi, no? Non è vero, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Oggi siamo un poker. Oggi facciamo un poker, quindi vincenti. E senti, ma partiamo subito per fare una rinfrescatina di... Sì, perché anche la volta scorsa in effetti avevamo approfondito la storia del popolo Sahrawi, la situazione politica attuale, le prospettive. Eravamo stati un po' in generale, eravamo assieme a Simone di Città, Visibili, di Nadia della rete Sahrawi e italiana, e poi insieme a Nino dell'appunto che è qui con noi anche oggi, della Palestra Popolare San Pietrino, che era stato l'anno scorso in viaggio e che sta per partire ancora. Stiamo per ripartire, sì, a breve. Vamos. Invece la volta scorsa, come stavi dicendo Tuco, ci abbiamo tenuto a fare una lunga introduzione sulla situazione del popolo Sahrawi, che questa volta l'avevi fatta tu per l'onor, a onor del vero. Esattamente, un riassuntino, in realtà poi partendo dagli albori della nascita di quella parte di mondo, attraverso lo spostamento di popoli, che sono poi quello che muovono la storia dell'umanità. Non abbiamo il tempo di ripercorrere tutti i passaggi, insomma era un'introduzione storica abbastanza lunghetta, ma la possono recuperare, sì, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Era, mi pare, maggio scorso, comunque cercando Sahrawi Ponte Radio sulla nostra pagina, quella delle Radio Sorelle, si intitolava appunto Sahrawi, c'è cioè tutta la trasmissione da 2 ore. Oggi cosa abbiamo pensato di fare però? Di dare un piccolo estratto, sono 10 minuti di questa lunga introduzione che avevi fatto, per contestualizzare ancora un attimo la situazione e poi parlare più fittamente del viaggio fatto, del viaggio che faremo, di qualche tema più preciso che non stiamo adesso ad annunciare, perché iniziamo da dove abbiamo detto e poi... Esatto, l'importante è rimanere qui con noi, 13.59 onde medie, per quanto riguarda il Wombat, se vi interessa nella zona del Fiorentino, altrimenti radiowombat.net, se volete scriverci potete scriverci a posta wombat@insiberia.net. Andiamo con il riassuntino. Il Sahara occidentale è un territorio dell'Africa nord-occidentale esteso 266.000 km², che è circa l'88% della superficie italiana, e si affaccia sull'Oceano Atlantico e comprende un vasto entroterra quasi interamente desertico, un tempo savana ma da molto tempo ormai un deserto roccioso e sabbioso. A livello politico, il Sahara occidentale è attualmente il più grande territorio non autonomo del mondo. È compreso, i suoi confini sono tra il Marocco, la Mauritania, che sono due, vedremo fra poco, due agenti in gioco per la situazione. Abbiamo anche l'Algeria con 42 km di confine. È un territorio vasto, ricco di fosfati, probabilmente anche di petrolio e gas, ma anche uranio e titanio, mentre lungo la costa vi è tuttora una pesca intensiva non indifferente. Questo rende chiaramente da tempo immemore il territorio appetibile. La popolazione sahrawi, frutto dell'unione tra popolazioni locali di lingua berbera e tribù arabe giunte verso il XIII secolo, di fede musulmana sunnita, di lingua araba, cultura tribale, beduina, dedita alla pastorizia nomade, in base alle stime delle Nazioni Unite, oggi di oltre 500.000 persone. Sahrawi vivono divisi, in parte il 30% nei campi di rifugiati in Algeria e in parte il 70% nel Sahara occidentale, sotto il dominio del Marocco, in una zona delimitata da un unico muro, detto Bern, lungo 2250 km, costruito dalle autorità marocchine tra il 1981 e il 1997, che attraversa e divide il paese da nord a sud, separando le zone più vaste, i due terzi del territorio, ed economicamente più importanti a occidente, occupate dal Marocco, da quelle sotto il controllo della Frente Popular de Liberación de Seguia El Amra y Rio de Oro, cioè il fronte polisario, nella parte orientale. La questione del Sahara occidentale, che presenta somiglianze con le perduranti traversie palestinesi o quelle patite a lungo a Timor Est, è la storia drammatica, controversa e mai risolta di un conflitto che ha origini molto lontane. Questo territorio vede già la presenza in epoca fenicia di dei territori di basi navali, per poi vedere passare successivamente, dopo la scomparsa dei Fenici, anche l'impero romano, e poi, appunto, come dicevamo, l'arrivo delle tribù berbere che si trasferirono prima in Mauritania nel terzo e nel quarto secolo, e dopo nel tredicesimo gli arabi cominciarono ad entrare e a portare appunto la loro cultura. E piano piano, appunto, c'è tutto il periodo, per esempio, delle conquiste della dinastia Almovidi, quindi insomma una ricca storia di guerrieri e nomadi che va avanti per lungo tempo. All'indomani dell'indipendenza del Marocco, però, andiamo direttamente a quello che ci interessa, cioè fondamentalmente la fine del Novecento, e dalla fine del protettorato francese, che finisce nel 1956, la Spagna, presente anch'essa in quella parte di Africa, infatti si parla in molte parti, si vede un sacco di scritte in spagnolo, non abbandonò le due piccole enclave di Ceuta e Melilla sulla costa nord del Marocco, nella colonia appunto del Sahara occidentale, in cui pochi anni prima erano stati scoperti ingenti giacimenti di fosfati. Il popolo sahrawi, mobilitatosi contro l'occupazione coloniale nel novembre del 1957, lanciò un attacco alla città portuale presidiata dalle truppe spagnole, che si chiama oggi Tarfaya, sulla costa atlantica, quasi di fronte alle isole Canarie. Nel 1958 la Spagna sconfisse l'insurrezione sahrawi, alleandosi per l'occasione con la Francia e con le forze armate del sultano Mohammed V del Marocco, che successivamente, per la prima volta, rivendicò il Sahara come marocchino. Il decennio della decolonizzazione in Africa si inaugurò nel 1960 con una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU che sancì il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale essi determinano liberamente il proprio status politico e perseguendo liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. La Spagna, dando priorità ad altri territori coloniali come le isole Canarie, consentì a che il Sahara occidentale fosse incluso nei territori interessati da quella risoluzione, preparandosi a riconoscere il diritto del popolo sahrawi all'autodeterminazione. Quindi sembra tutto bene fin qui, e invece no. Nel 1965-66 furono approvate due risoluzioni specifiche all'ONU che ribadirono il diritto del popolo sahrawi a decidere con referendum se creare il proprio Stato o unirsi ad uno Stato esistente. La Spagna non si oppose a questa soluzione, prospettando la necessità di realizzare prima un censimento della popolazione nella regione, e qui sta l'inghippo, uno degli inghippi. Tutto ciò contribuì a rafforzare le ambizioni indipendentiste del popolo sahrawi, giustamente, e all'inizio del 67 si costituì il movimento nazionalista sahrawi a rivendicare l'indipendenza. All'inizio degli anni 70 il movimento indipendentista si trovò ad agire allo stesso tempo contro l'occupazione spagnola e le rivendicazioni territoriali del Marocco. Dopo la repressione sanguinosa da parte spagnola in una manifestazione pacifica organizzata a Zemla nel 1970, il 17 giugno, il movimento sahrawi prese la decisione di andare oltre la forma pacifica della resistenza e nel 1973 nacque il Fronte Polisario. Nel 1974 la Spagna ha completato il censimento della popolazione del Sahara occidentale, che aveva registrato la presenza di 74.902 persone, e si dichiarò pronta ad effettuare il referendum di autodeterminazione del popolo sahrawi. Il Marocco però espresse la sua netta opposizione alla decisione della Spagna di indire il referendum in ossequio alla risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU e chiese si riconoscesse l'esistenza di una controversia giudiziaria sul Sahara che coinvolgeva anche la Mauritania. Nonostante la Spagna avesse ribadito che il Sahara occidentale fosse sempre stato sotto il suo controllo, negando l'esistenza di una controversia, l'Assemblea Generale dell'ONU approvò, pur con molte astensioni, una risoluzione che deferiva la questione alla Corte Internazionale di Giustizia, chiedendo un parere se il Sahara occidentale fosse stato una terra nullius, cioè una terra abitata da persone senza organizzazione sociale o politica, al momento della sua occupazione da parte della Spagna e, nel caso in cui ciò fosse stato, non fosse stato, quali legami giuridici esistessero tra il Sahara occidentale e il Marocco e la Mauritania. La Corte Internazionale di Giustizia espresse un parere consultivo il 16 ottobre del 75 affermando che il Sahara occidentale non fosse una terra nullius nel XIX secolo, anche se non aveva nulla in comune con il concetto di sovranità come concepita nella cultura politica occidentale. L'area era abitata da un popolo prevalentemente nomade, diviso politicamente e socialmente in tribù guidate da capi riconosciuti come rappresentanti legittimi, che tra l'altro firmarono il trattato di protettorato nel 1884 con la Spagna, che degenerò presto in dominazione coloniale. La Corte escluse qualsiasi forma di sovranità territoriale sul Sahara occidentale da parte del Marocco e della Mauritania. Inoltre il giudizio fu rafforzato dalla visita nello stesso anno di una missione dell'ONU che concluse che c'era un consenso schiacciante tra la popolazione sahrawi a favore dell'indipendenza nazionale e contro l'integrazione con qualsiasi stato confinante. Il giorno della pubblicazione del parere della Corte, che sembrava potesse far definitivamente chiarezza, la reazione marocchina non si fece attendere. Il re Hassan II fece sfilare una marcia di volontari, tra virgolette, volontari marocchini, che per prendere il controllo di ciò che chiamò le province marocchine del Sahara, la cosiddetta Marcia Verde, ribattezzata Marcia Nera dal popolo sahrawi, che iniziò il 6 novembre del 75 con 350.000 marocchini che entrarono nella zona nord-ovest senza incontrare alcuna resistenza da parte della Spagna, e fu subito imposto il coprifuoco su tutto il Sahara occidentale. La Spagna si rivolse al Consiglio di Sicurezza dell'ONU chiedendo la convocazione di una riunione per condannare l'iniziativa del Marocco come minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Senza poter ripercorrere nei dettagli tutte le tappe, la risoluzione e le occasioni mancate degli errori principali commessi da allora, si può considerare quel momento decisivo del 1975 come un punto di svolta e dimostrazione di una capacità dei paesi leader a livello globale di gestire e orientare gli sviluppi anzitutto a favore della pace e della tutela dei diritti della popolazione. Il Consiglio di Sicurezza decise di condannare la Marcia Verde, ma senza fare alcun riferimento a violazioni delle frontiere internazionali, sollecitando semplicemente le parti coinvolte a trovare una soluzione. 14 novembre del 75, Spagna, Marocco e Mauritania firmarono gli accordi di Madrid, in base ai quali la Spagna, alle prese con la fine del franchismo, decise di abbandonare il Sahara occidentale, lasciando di fatto la contesa in mano a Marocco, Mauritania e Fronte Polisario. La clausola principale dell'accordo, infatti, fu quella di dividere il territorio tra il Marocco e la Mauritania, mentre la Spagna si garantiva il 35% delle miniere di fosfato e diritti di pesca nelle acque per 10 anni. Subito Marocco e Mauritania aumentarono i dispiegamenti di forze armate nell'area. Oltre 45 anni dopo, ci si può solo chiedere perché l'apparente disattenzione internazionale nei confronti delle rivendicazioni del popolo sahrawi, riconosciute teoricamente come legittima a livello internazionale, abbia prodotto una delle più evidenti dimostrazioni di scarsa volontà politica e di incapacità del sistema di governance globale sotto l'egida del Consiglio di Sicurezza di trovare una soluzione pacifica ed equa di un processo di decolonizzazione. Ed eccoci qui, caro Tuco, siamo in diretta sul... Non è vero, stiamo registrando perché i compagni che sono qui con noi quando sarà trasmesso questo ponte radio saranno in Sahara Occidentale. Esatto. Li abbiamo esatto. appunto coinvolti poco prima della partenza, la vigilia davvero. Grazie esatto. intanto per essere con noi. Come avevamo fatto allora, anche questa volta ci teniamo comunque ad attualizzare un po' la situazione. Siamo fermi al referendum dell'89, ancora in sospeso dalle Nazioni Unite e dal popolo Sahrawi richiesto, ma mai effettuato. E sì, possiamo innanzitutto, davvero ottimo il resoconto e il riassunto. Però, della... Scusa, non andremo in Sahara Occidentale, andremo nei campi profughi di Tindouf, che si trovano in Algeria. Grazie, perché in effetti, come avevamo ricordato anche la scorsa volta, infatti scusa, ma gran parte del popolo sahrawi non vive effettivamente nel Sahara occidentale, ma nei campi profughi. Ma vive nei campi profughi. A inizio della vocale c'era 33% abita nei campi e il 70% che conferma, restante. Scusate faccio un po' la somma, però conferma appunto la necessità un po' di ribadire la questione di continuo per quanto riguarda la questione sahrawi, proprio per... sicuro la particolarità della loro condizione, ma anche in genere dai, possiamo dire un po' lo scarso interesse e conoscenza che c'è per la questione. E, no, secondo me il riassunto che hai fatto era veramente impeccabile. Rinnovo l'invito a guardarsi e approfondire con la puntata dell'anno scorso. E sì, diciamo che forse andando verso l'attualità, l'unica cosa da aggiungere forse è appunto questo stallo diplomatico in cui si trova la questione sahrawi e del Sahara occidentale, appunto, che ha avuto come ultimo, diciamo, capitolo una risoluzione dello scorso autunno circa. Sì. Che di fatto è piuttosto emblematica nella sua ambiguità di interpretazioni e di fatto nella sua staticità, cioè nel fatto che perpetua appunto quella che era la condizione dall'inizio degli anni 90, cioè fondamentalmente si solletica, si suppone un diritto all'autodeterminazione dei popoli, ma poi non viene garantito nella pratica, in nessuna forma. Uno degli aspetti di questa risoluzione dell'anno scorso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che è considerata rilevante almeno dal punto di vista delle reti sahrawi e delle collettività sahrawi è quella che il fronte polisario è ancora visto e proposto come interlocutore ufficiale, che è un aspetto quantomeno singolare di questi tempi, che si garantisce di nuovo questo appunto diritto all'autodeterminazione dei popoli, ma che di fatto appunto non implica questa risoluzione nessun passaggio esecutivo particolare, anzi, e questa è la parte che è più critica dal punto di vista sahrawi, viene introdotta la possibilità che il Marocco proponga un piano di autonomia, che è un aspetto letteralmente viscido, secondo cioè, me. Cioè un piano di autonomia sotto l'egida marocchina. Esattamente, e soprattutto sotto la proposta marocchina, quindi sotto la proceduralizzazione marocchina, quindi anche il controllo marocchino. E che ovviamente è un aspetto davvero inaccettabile dal punto di vista sahrawi. E diciamo sì, questo è appunto è uno, cioè di nuovo ho trovato questa, abbiamo trovato, perché noi appunto con Nino abbiamo creato appunto un collettivo che poi in questa puntata una gang, è vero. E abbiamo discusso molto appunto di questa difficile interpretabilità della loro condizione, almeno a livello e di questo stallo diplomatico in cui si trovano, però insomma ecco, noi ci andiamo comunque e cerchiamo di essere, di portare appunto, di andare soprattutto anche a raccogliere testimonianze e anche pareri diretti di queste persone sulla loro condizione, data questa un po' diciamo, terra di cristallo, non saprei come definirla, in cui si trovano dal nostro punto di vista, cioè dall'Occidente. Sì, perché di fatto loro sono stati relegati a un non luogo, un posto riconosciuto da nessuno, e è la parte più desertica e messa male della zona, diciamo. Sì, è un posto inospitale proprio alla vita, perché sono condizioni estreme, estati caldissime, si raggiungono più di 50 gradi, l'inverno è freddo, cioè, se c'è vento vuol dire ci sono tempeste di sabbia, se piove ci sono inondazioni, esatto. Alternata siccità. Siccità, non c'è possibilità di coltivare niente, vivono totalmente con gli aiuti sì, sono umanitari, quindi ma ricordiamo, e stanno lì da 50 anni. Soprattutto quello. Tra l'altro, nella risoluzione, quest'ultima che citavi, si sono astenute Russia e Cina, e l'Algeria non ha proprio partecipato al voto come protesta, perché non è d'accordo. Si sa che l'Algeria è dalla parte, diciamo, sostiene sì. Qui, blandamente. Qui il buon Tuco, magari in altre puntate, poi potrà approfondire il posizionamento storico dell'Algeria, perché anche quello è davvero molto interessante. Vero. Chiave antifrancese, esatto. Antioccidentale in generale. Però, ad esempio, un altro aspetto che secondo me è un po' importante inquadrare è che questa risoluzione è sulla scia, diciamo, dei patti di Abramo, anche, cioè quindi dell'accordo che nasceva inizialmente tra alcuni paesi Emirati Arabi, ora non ricordo esattamente, ma fondamentalmente tra Israele e Stati Uniti, per la delegittimazione della causa palestinese, cioè quindi per il fatto che il Marocco, appunto, no? Il Marocco si inserisce dopo nei patti di Abramo. Però ne fa ampiamente parte insieme anche al Sudan, Emirati Arabi e Bahrain. Nasce. Grazie. Il Marocco c'entra dentro, e una conseguenza di questi dei patti di Abramo è sicuramente una, diciamo, ufficializzazione del supporto militare che Israele e Stati Uniti danno al Marocco, e poi magari ne parliamo. Sì. E anche appunto una, diciamo, accondiscendenza a livello diplomatico alle Nazioni Unite, e quindi questa risoluzione è un po' a sua volta figlia di quello, esatto, che è successo. Cioè, diciamo che 2020, tra l'altro, stiamo parlando degli accordi di Abramo, nascono in chiave anti-iraniano, ufficialmente, sì, di cui ora forse stiamo arrivando, tra l'altro, al capitolo finale, vedremo. E ci troviamo però con questo orrendo parallelo fra la situazione del popolo Gazawi e quello Sarawi, sì, sotto Israele. E infatti, però, ritenendo ancora il filo un pochino sulla scorsa puntata, nominavi ovviamente il fronte Polisario, ho ancora ritenuto il rappresentante ufficiale, mi viene in mente che ne avevamo parlato a lungo di come effettivamente tutto il popolo Sarawi fosse rappresentato dal fronte Polisario anche nella scorsa puntata, e quindi mi sembra anche inevitabile, no, che sia così, è veramente l'unico rappresentante, il popolo Sarawi, ci raccontavano Nino, Simone, come effettivamente si senta lì rappresentato. Fra l'altro avevamo anche la voce di Abdellahi, che è, se non sbaglio, il rappresentante toscano del fronte italiano, no? Italiano toscano, no, rappresentante della Toscana, del fronte Polisario, sì. Mentre invece mi era rimasta molto, ora che tu ci raccontavi l'aggiornamento della situazione, come veniva raccontato appunto da Nino, Simone e gli altri che avevano fatto anche l'ultimo viaggio, come da parte dei giovani che stanno lì ci fosse una sostanziale sfiducia di fronte alla prospettiva diplomatica ancora perseguita da, diciamo, dagli adulti, dagli anziani, mentre nei giovani una sostanziale sfiducia di fronte a questa, che portava anche alla volontà di alzamento del livello del conflitto, estremizzazione, sia quel che sia, di fronte alla tragedia che ci aspetta. Sembrava fosse un po' questo, un sentimento giovanile che ci raccontavate essere forte. Sì, cioè, allora, ora parlando dell'ultimo viaggio in cui sono stato, l'anno scorso, diciamo, non difficile poi generalizzare il pensiero delle persone, però sì, tanti giovani, giustamente giovani che sono nati lì, che non hanno mai neanche visto il Sahara occidentale, quindi la loro terra, e dopo 50 anni di delusioni diplomatiche, perché loro sono un popolo veramente sfortunato, cioè l'hanno dopo 50 anni sì, c'è molta delusione e non a caso da qualche anno è iniziata anche la guerra armata. E in tanti vanno sul fronte, certo è una guerra impari, sì. Da qualche anno, cioè, allora, il muro è circondato dalle mine, quindi c'è da milioni di mine messe in 50 anni. E negli ultimi anni ci sono anche i droni appunto israeliani, quindi questo è dagli accordi di Abramo. Certo. Quindi però in tanti vanno lì e magari preferiscono anche morire piuttosto che continuare a vivere in quelle condizioni. Poi sì, ripeto, non si può generalizzare il pensiero, però sì, è una situazione drammatica. E nello scorso viaggio cosa avete fatto? Allora, noi lo scorso viaggio siamo partiti con Città Visibili. Ah, sì. Che è questa associazione di Campi Bisenzio che da più di 20 anni organizzano viaggi. Tra l'altro sul loro sito ci sono molte informazioni, sì, sulla storia di Sraoui, sì. È interessante da consultare. E sono attivi, ora fanno varie attività tra cui l'accoglienza dei bambini durante l'estate. E gestiscono, hanno un progetto di adozioni. E organizzano appunto anche i viaggi. Questi viaggi sono per lo più conoscitivi. Si va lì 2 settimane. La prima settimana vai a vedere un po' tutte le attività. Cioè le attività, tutte. Abbiamo visto gli ospedali. Abbiamo visto l'Unione Nazionale delle Donne, che dopo sentiremo anche un audio di una registrazione che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo visitato le palestre popolari, le scuole, il museo della Resistenza, mentre poi la seconda settimana ci siamo dedicati anche un po' ad alcune attività, tipo la costruzione di una tenda, cioè un negozio che ora ha fatto un anno, ora quando torniamo vediamo un po' come è messo. Però, cioè, diciamo, poi noi durante quest'anno, l'anno scorso eravamo in 2, quest'anno ci siamo organizzati, abbiamo appunto formato la nostra gang D2D Desert to Desert. Quanti siete? Siamo una decina di persone in totale, ma a partire siamo in 5. Sì, allora poi magari appunto si dice, vabbè, proviamo ora velocemente appunto, no. o ne parliamo dopo magari. Se non sono antipatico io rimarrei sul vecchio viaggio, infatti, prima di arrivare, sì, poi effettivamente a quello nuovo. Anche perché avevamo delle cose da fare sentire e ci raccontavi della seconda settimana, infatti, delle attività che avete fatto, magari come la costruzione di un negozio che andrete a vedere. Però non avete soltanto visitato le palestre, già ne parlavamo, come Palestra Popolare San Pietrino avevate portato... Abbiamo anche portato, sì, con la Palestra Popolare San Pietrino, che è la palestra appunto dell'Emerson, una palestra autogestita. Abbiamo raccolto l'anno scorso dei soldi per comprare del materiale sportivo da portare appunto alle palestre Resistir e Vincer, che sono 5 palestre popolari fondate 15 anni fa, se non sbaglio, da Sergio, che è un ragazzo italiano che era andato lì per fare, partecipava alla maratona che fanno lì tutti gli anni. E da lì, dall'incontro con Delega, che invece è un altro ragazzo Sahrawi, pugile, che si è formato a Cuba, perché Cuba è un paese storicamente amico del certo. Popolo Sahrawi. Tanti ragazzini da bambini andavano proprio a Cuba a formarsi. Parte della formazione universitaria è stata fornita. Tanti medici andavano, perché comunque Cuba, come sappiamo, a livello internazionale è sempre stato. Sì, e anche il sistema sanitario è uno dei più avanzati al mondo. Certo. Quindi andavano. Ora, in realtà, negli ultimi anni hanno smesso questa cosa, mandano i medici cubani nei campi profughi a fare l'informazione. Prima andavano lì. Insomma, Delega era uno di questi, si è formato lì. Un altro vanto di Cuba è anche il pugilato. E quindi lui si è formato, è diventato pugile e insieme a Sergio hanno appunto fondato queste palestre popolari, con cui abbiamo creato una sorta di gemellaggio con la palestra San Pietrino. Anche quest'anno porteremo altro materiale sportivo. Le palestre lì sono frequentate soprattutto da bambini, si allenano tutti i giorni, anche più volte al giorno. A me aveva colpito questo racconto. Come dicevamo anche nell'altra puntata, sì, perché lì una delle problematiche è anche proprio come passare il tempo, diciamo, si annoiano tanto, ma perché proprio è un paesaggio, è un territorio dove non c'è niente. Non c'è un bosco, non c'è degli alberi, non c'è un fiume. C'è deserto, rocce, spazzatura, capre. Vabbè, però questo qui è anche sicuramente quindi il deserto è un'ulteriore, diciamo, condanna. Però è, la questione della noia è molto tipica di tutti i campi profughi, sì, di tutti i campi sfollati, anche in situazioni appunto totalmente diverse, però è un aspetto che diventa molto rilevante, cioè, nella gestione delle persone in questi contesti, sì. E Nino, tu l'altra volta, fra l'altro, avevi registrato tanti audio che non abbiamo trovato il tempo di mandare nella scorsa puntata. Due brevi che avevi portato, li mandiamo adesso. Sono un tuo breve discorso, insomma un intervento di delega di cui ci hai parlato. Di delega, sì. Sono due minuti e 30 secondi. Io li manderei direttamente in sequenza, uno dopo l'altro. E poi sono in spagnolo, si capisce piuttosto bene, ma magari sì, poi poi magari lo traduciamo un pochino. E allora sentiamo la voce di delega, uno dei due fondatori assieme all'italiano Sergio di queste palestre popolari. E rientriamo fra pochissimo. Entonces, yo soy de Lega, el entrenador aquí de las cinco escuelas de boxeo aquí en los campamentos. El introductor del boxeo aquí en los campamentos fue Sergio Fiorenzano de Milán, que llegó en el 2014 aquí y ahí comenzamos a trabajar. Y entonces, desde el 2014 hasta ahora, hemos construido cinco escuelas donde acuden muchos niños para aprender a boxear. Este proyecto financiado por Sergio con ayuda del ministro de Juventud y Deportes Saharaui aquí en los campamentos. Entonces aquí hay mucho talento en estos niños. Tenemos muchos profesores aquí que tienen talento y entonces nosotros queremos que ese talento que sí puede competir en internacional es mejor todavía, porque nosotros queremos que lo que tenemos de boxeadores que aprendan a boxear para poder competir internacionalmente, para, por ejemplo, apoyar su causa, para ser, y como boxeadores pueden, por ejemplo, ser campeones en cualquier torneo internacional africano, a nivel de África, a nivel de Olimpiadas, a nivel de Copa del Mundo, por ejemplo, de boxeo. Y eso esperamos, y eso es lo que estamos esperando. Aquí trabajamos 6 días a la semana en las 5 escuelas, donde esos niños acuden todas las tardes después de los estudios y lo enseñamos como 3 o 4 horas lo que es el boxeo. Vale. Un poco, puede muchas gracias. Entender, sí, sí, sí. A ver si se puede. Benísimo. No sé qué... Benísimo. ¿Eh? Sí, sí, puede. Entonces, ese chaval ha introducido el boxeo aquí en los campamentos y desde 2014 hemos construido 5 escuelas en los 5 campamentos refugiados aquí del pueblo saharaui en la región de Tinduf. Y entonces aquí acuden muchos niños donde toman clase para aprender a boxear, para mañana poder ser... podemos sacar unos campeones de estas palestras y esperamos eso. Chao. Grazie mille. Mejor así. Sí. عنواني قريتو في عيونك في عيونك كاتب عنواني عنواني قريتو في عيونك في عيونك كاتب عنواني الا نختار نقولولك يا الريم معايا. Ed eccoci qua, questo è il Ponte Radio, stiamo parlando di Sahrawi, di quel che è stato, di quello che è, di quello che sarà. Beh, si capiva effettivamente abbastanza bene. Delega, non delega. Delega. Ma Nino sostanzialmente raccontava delle palestre, sì. Ci dicevi quello che dicevi tu, vero? Sì, dice che le palestre sono state fondate nel 2014, 5 palestre, in realtà ora dovrebbero essere 6. Sì, mi hanno aggiornato, ne dovrebbero aprire una, ne stanno aprendo una a Dakhla, che è la città, la wilaya, diciamo un po' più distante, dalle, perché la prima che venne fatta è quella, diciamo, più a ovest verso il Sahara occidentale. Per wilaya si intende accampamento. Wilaya, esatto, sono gli appunto, sono sì. Le città, diciamo. Sì, che no, allora questa, qui è, questa è una nomenclatura, però appunto essendo, speriamo, una condizione transitoria, non la vogliamo chiamare città, è meglio chiamarla appunto, penso anche... Wilaya. Esatto, è il nome... Come si chiama allora? No, allora due cose vorrei. La prima è, mi ha colpito quando raccontava Delega della possibilità, della speranza che partecipino anche in campionati nazionali, internazionali, africani, continentali o sì. Olimpici. E mi chiedevo sul riconoscimento della nazione Sahrawi in questi contesti, per esempio sportivi, se sai dirci qualcosa. E poi vabbè. Ah, nei contesti quanta. Sportivi ora non lo so, però cioè, il Sahara occidentale comunque è riconosciuto da tanti paesi, soprattutto in Africa. E... Alle Olimpiadi non compete. No. Le però Olimpiadi... magari... No, no. Non c'è. No, no, no, è appunto è più probabile, però in effetti da valutare che sia magari all'interno, cioè all'interno magari di competizioni africane, esatto. O pur esempio sì, tipo, lì sono sì. Magari sì. Cioè, abbiano dei contesti ufficiali dove proporsi. Allora, Delega citava proprio le Olimpiadi. Sì, ma poi si è sì. Un attimo aggiusto. Sì, comunque era un dubbio che mi era venuto. E invece rispetto alla transitorietà delle dimore, una cosa che mi ha colpito, Nino, anche quando tu ci raccontavi come sostanzialmente l'idea teorica di mantenere un'abitazione che non sia fissa significhi una non abitudine al territorio, cioè continuare a vivere sostanzialmente in tende, per quanto ce le descrivevi difficili le condizioni di vita nelle tende, significava un attaccamento alla terra che voleva essere mantenuto. Allora, diciamo che in realtà non è così, perché i campi sono cambiati negli anni. Ora le tende non ci sono più, ma ci sono strutture. Case, ma su baracche, in realtà, noi tetti in lamiera. E ci sono ancora alcune tende e di molte persone, magari più della prima generazione, che hanno questo attaccamento che dicevi te, che comunque sono persone che erano di base nomadi, tanti di loro, e quindi c'hanno ancora, cioè, c'hanno questo concetto di dire no, noi qui siamo di passaggio, quindi non vogliamo stare e stiamo in tenda. Però come ti dicevo prima, ci sono poi le ultime generazioni che hanno un po' perso questo sentimento qua. Ma che non l'hanno proprio, probabilmente, cioè anzi ad esempio il nomadismo è un racconto. No, per loro. Però più che il nomadismo, cioè, il concetto di dire noi qui ci stiamo di passaggio, quindi sì, stiamo sì, in sì. Tenda, perché tanto poi torniamo di là. No, nel senso che dal loro punto di vista quelli, casa. Quelle, appunto, quei accampamenti sì, sono città vere e sì. Proprie, perché sono l'unica forma di, cioè, di aggregato di persone che conoscono, quindi quella è la città in effetti, da certi occhi, ecco, per certi occhi. Allora, il Sahrawi è riconosciuto da un numero variabile a seconda degli anni di paesi, in media una cinquantina, ha avuto un picco a un certo punto di 80, ma... E il problema Sahara occidentale, no, sì. Dicevo. Scusa, hai ragione, ho errato. No, si sbaglia spesso questa cosa, perché okay. Non perché non partecipa alle Olimpiadi, perché non è riconosciuto dal CIO. Quindi dal Comitato Olimpico Internazionale, perché il Comitato Olimpico Internazionale riconosce comitati sportivi solo di paesi riconosciuti come tali. Quindi, sì. Opinabile, sempre una questione di... In base a... Boh, no, boh, molto sfumato. Un motivo in più per avercela con le Olimpiadi, dai. Su, Quantomeno. Un motivo in più. Ma invece la Palestina ce l'ha, per esempio, è riconosciuto. Sì, sì, sì. Partecipa, sì. Ma e invece, sì. Parlando di quel che sarà... Oui. Sì. Scusa. di quel che sarà almeno a brevissimo termine. Oddio, no? L'ho capito ora, sei tremendo. Sì, sì. Io no, Madonna, ancora. Ci sono adesso. Alza la base, fuori, per favore, fuori, alza la base, fuori, dai, che roba è. Scusate, no, allora... Parlando di ciò che sarà e basta, sì, allora provando un po' a proseguire, dai, questa chiacchierata di oggi. Allora, Nino è andato l'anno scorso, appunto, insieme a un'altra persona che verrà anche quest'anno, tra l'altro, in via individuale. Diciamo, è stata un po' una loro spinta, hanno fatto un po' da vettore di questa cosa. Dopo che hanno fatto, appunto, questa esperienza l'anno scorso, abbiamo fatto proprio delle chiacchiere informali tra compagni e compagne qua, insomma, del Fiorentino, e si è letteralmente preso un interesse abbastanza forte per dire: proviamo a creare delle reti di solidarietà che si interessano all'internazionalismo. E questo era un contesto perfetto per creare appunto un gruppo di persone interessate. Non so ancora se possiamo definirlo davvero collettivo, forse no, gang è davvero la terminologia più giusta, da quell'alone di curiosità e informalità che ci piace tanto, e quindi sì, ci troviamo settimanalmente, abbiamo iniziato a ragionare su che cos'è la solidarietà, che in generale nel contesto internazionale, quella che ci sarebbe piaciuta a noi, e un po' come realizzarla questa solidarietà. Questo, diciamo, è la premessa. Quindi abbiamo deciso di dare un nome appunto a questo gruppo, che è Desert to Desert, abbreviato D2D, con cui appunto abbiamo iniziato a fare una serie di iniziative sia informative che di raccolta fondi per il viaggio di quest'anno, che come quello dell'anno scorso sarà gestito fondamentalmente da Città Visibili. Città Visibili, che è un'associazione, ci tengo anche io a ribadirlo, ottima, fa un lavoro eccelso qua sulla questione, soprattutto di informazione e di mantenimento di attenzione sulla questione, perché è molto, questa roba qua è inevitabile. Poi perché quando si parla di, in particolare, diciamo, di Sahrawi, ma spesso nell'internazionalismo ci sono dei passaggi burocratici formali dove l'informalità ha i suoi limiti. Ciò detto, durante questo viaggio, durante la spedizione più che viaggio di quest'anno, noi seguiremo un po' le tracce definite da Città Visibili, ma abbiamo un po' l'obiettivo di sviluppare alcuni progetti che abbiamo un po' ragionato tra di noi, ci piacerebbe portare avanti, e creare un po' di reti dirette, letteralmente orizzontali, con le persone nei campi, per più che svincolarsi, provare a portare una prospettiva letteralmente indipendente dal basso di solidarietà, cioè che possa anche affiancarsi al lavoro, ad esempio, che fanno alcune associazioni tipo Città Visibili o altri partecipanti della rete Sahrawi Italia, perché appunto poi in Europa, questo qui forse è un dettaglio che può essere interessante, queste reti di solidarietà sono a livello nazionale, quindi c'è rete Sahrawi Italia, rete Sahrawi Spagna, rete Sahrawi Francia, e sono abbastanza atomizzate, tra virgolette, cioè si parlano queste reti, e ad esempio una delle prime spinte per anche di questo progetto, di questo viaggio qua, tra di noi era: volevamo andare in macchina giù, cioè provare a fare una carovana, jeep, camper e un bel po' di mezzi con cui avremmo voluto portare innanzitutto proprio far capire le distanze, cioè provare un pochino a toccare le distanze fisiche del mondo, ma poi soprattutto portare aiuti, cioè riempire i nostri mezzi di aiuti, perché di nuovo i campi attuali vivono solo di aiuti, non hanno possibilità di autosostentamento di nessun tipo, se non forse quello solare, cioè, e sti cazzi. E quindi l'aspetto comunicativo è quello che un pochino ci spinge, quindi riuscire a esprimere la nostra solidarietà tramite fare da eco, diciamo, alle loro voci in Occidente in particolare, e magari in stati occidentali come anche quello italiano, che possono avere non, l'Italia non in particolare, però anche qualche ruolo in senso diplomatico e, su, per quello che riguarda la loro questione, e anche semplicemente di mobilitazione di informativa. Rispetto al nostro progetto, dicevo, quindi noi ora non possiamo negare di averci messo la bocca, di essere stati proprio traventati dall'idea di partire con una carovana via terra, ma purtroppo questo febbraio non ce la faremo per tristissime questioni burocratiche, doganali, che un pochino ci sono messe tra le gambe, però che ma non ci arrendiamo, ma non però. Ci arrendiamo, cioè, assolutamente, anzi posticipiamo e basta. Certo. Un conto andare personalmente, un conto andare con un mezzo, quindi sì, è ben diverso. Sì, perché ad esempio, infatti, a livello proprio burocratico, come diceva Nino, i campi sono di fatto in Algeria, ma per entrare nei campi servono due visti, cioè quello algerino e poi quello verso i campi. Quello algerino si prende facile? Mediamente, sì, abbiamo buoni rapporti, diciamo, con i giusti agganci. Sì, ah, sì. La cosa più rischio con città visibili, sì, no, ma per l'Algeria stessa la cosa più problematica è tendenzialmente il Marocco, cioè se tu hai molte entrate in Marocco, corrispondenze, certo, col Marocco, quella è la cosa che può più essere, certo, problematica, perché le frontiere tra Algeria e Marocco comunque sia sono ampiamente, cioè, estremamente chiuse, anche lontano dal muro, ecco. E quindi sì, non c'è passaggio diretto. E quindi la roba che volete portare, come la portate? E quindi a questo giro è in valigia. Ah, ok. No, diciamo davvero, questa missione sarà di nuovo principalmente esplorativa. Cioè vogliamo, avendo incontrato... Con un'idea più chiara però questa volta. Assolutamente sì. E diciamo, sì, e anche confrontandosi con altri compagni o compagne che ad esempio hanno avuto esperienze in Chiapas o come Mapush, certo, la questione del tempo... E l'aspettativa nostra, occidentale, di quello, di come si fanno le cose, di quanto ci vuole, viene spesso stravolta. Cioè i tempi si dilatano, certo, e vanno accettati proprio perché non è un pago pretendo, ovviamente, ma anzi... E quindi ecco, posticipiamo, la trasferta invece è la carovana via terra, però... La posticipiamo addirittura invece con diciamo un rilancio, perché verosimilmente ci aggregheremo appunto a una carovana spagnola. Speriamo, forse. Eh no, è la nostra chiave. Ci stiamo provando anche. Rilanciamola. Sì, sì. No, vabbè, la carovana spagnola sicuramente partirà. Ma di compañeros? Sì. Ovviamente sì. Fantastico. Quando? Sapete quando? Ecco, buona domanda. Ecco. Dovrebbe essere dopo l'estate. Però ancora la data esatta non la conosciamo, quindi dopo l'estate 2026, quindi per chi ci riascolterà in questo ponte radio chissà quando, dovrebbe autunno 2026 o l'inverno subito dopo. Ma fra l'altro non so se è il caso, ditecelo voi, nel caso, come non detto, magari invitiamo chi ci ascolta, se è interessato, a scriverci magari a Posta Wombat e giriamo i contatti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Per le prossime... Per adesso noi siamo stati un po' con l'acqua alla gola, perché dovevamo organizzare tantissime cose. Posta Wombat è un ottimo intermediario verso di noi, quindi davvero usatela. Però c'è attualmente attivo un crowdfunding... che si chiama d2d.vado.li, lo trovate semplicemente, e, che appunto riguarda principalmente il viaggio che andiamo a fare adesso, quindi quando sentirete questo, forse infatti lo realizzo adesso essendo la puntata registrata, sarà troppo tardi, però vabbè, comunque sia, i soldi che abbiamo raccolto tramite iniziative di crowdfunding andranno di nuovo a supportare progetti di Box Popolare, Box Popolare, sì, Resistere Vincere, le 5 palestre e la questione di sport e accessibilità con dei gruppi nei campi che fanno sit volley e sit basket. Sì, che infatti questa è una delle attività sportive secondo me più interessanti, che sì, appunto la pallavolo e il basket per persone con disabilità, in sedia a rotelle, con disabilità. Ora, raccontarla in radio è strano, però io ho visto una mostra di fotografie bellissima che avete, sì, curato su questo, è francamente sorprendente, l'immaginario, vedere nella polvere. Sì, sono tutte foto che mi mandano loro dai campi direttamente, perché sono insomma dentro un gruppo sportivo, dove c'è anche la palestra di Sergio, cioè insomma tutte le attività sportive che fanno lì. Bello. Quindi mi arrivano sempre aggiornamenti sia sulla box che loro del basket, pallavolo. C'è anche una componente medica nei vostri spostamenti? Allora, in quella di, cioè, con tra i partecipanti di cioè, Città Visibile organizza questo viaggio in cui noi partecipiamo, ci sono tantissime altre persone, ci sono anche gruppi diciamo di professionisti, di dentisti, odontoiatri, così, ecco, sì, che partecipano a questo viaggio. Un'altra però prospettiva, un progetto di cui stiamo iniziando a discutere tra di noi, è invece cioè noi ci interessa particolarmente la questione di accessibilità. Quindi provare a capire forme di supporto e scambio e solidarietà in quella direzione là. Tra di noi ci stanno iniziando a frequentare, appunto, il nostro gruppo anche una dottoressa e un'altra persona con competenze infermieristiche specifiche, e quindi stiamo anche valutando di provare a organizzare forme di aiuto e di scambio di questo genere. Però ecco, attualmente direi, da questo punto di vista qua, ci sono appunto gruppi di persone con competenza ufficiale che si sono organizzate a fare, che ne so, penso il giro odontoiatrico di tutti gli accampamenti, eccetera eccetera. Diciamo che noi siamo un po' embrionali per ora, no? Quindi una precisazione per il crowdfunding di cui parlavi è di 2 il numero di, che magari uno non... Ah sì, perché sai, io sono internazionale. Lo so, sai, certo, un po', certo, di, questi inglesismi fanno parte di te, però... Comunque sì, diciamole, di di due... come Domodossola, allora, guarda, precisiamo. Esatto. Due come concluso. Due... Due come il numero, proprio scritto, due. Di come Domodossola, ancora, punto vado, punto lì. Senza accento, senza così accento, nessuno può sbagliare, accento. Molto bene. Beh, comunque noi ci teniamo molto a proseguire questa attenzione, insomma, ai vostri percorsi e al popolo Sahrawi. Mi raccomando, registrate cose come l'altra volta e quando tornate. No, ecco, esatto, infatti per proprio Food for Thought, ma riempiremo poi Wombat di audio. Lo so, te l'ho detto, ormai sto proprio andando, ci sto andando forte. Ascolta Sahrawi questi. No, l'ambizione nostra è poi mandare, cioè creare una rete con loro, magari con le radio loro. Sì. Sì, perché ad esempio infatti ci sono delle... Per poi mandare cose qua. Perché ad esempio attualmente uno dei canali diciamo che esistono in Italia di informazione per quello che riguarda la questione Sahrawi è una pagina Facebook che si chiama Wasa Time, che è gestita da una persona Sahrawi. Non ci siano più persone, però comunque sia, c'è una redazione molto molto piccola, se non di una persona. Sì, poi comunque sì. E quindi abbiamo capito che magari da quel punto di vista là potremmo riuscire a dare una mano, ad esempio a creare un pochino semplicemente di interfaccia, non creazione di contenuti o quello che è. E noi sicuramente saremo ben pronti. Non sappiamo in realtà se hanno una radio ufficiale, hanno sicuramente una televisione. Che forse che anche questa potrebbe essere un canale su Facebook. Potrebbe essere, non lo so, però andremo a visitare la sede della TV. E tutto ci farete sapere appena tornate. Scopriremo un po'. Dobbiamo indagare. Dobbiamo indagare. Andiamo a conoscerli, indagare. Eh sì, vedete un po' anche com'è la situazione creare attuale. Creare relazioni. Non aspettiamo altro. Radio Nazionale della RASD, RSD, che trasmette dal 75, la radio ufficiale. Vediamo infatti che cosa... Okay. Allora, noi abbiamo 2 minuti 2, no, in realtà 3 minuti 3, perché poi ci siamo ripromessi di trasmettere in conclusione un audio lungo, anche questo registrato dallo scorso viaggio. Lo annuncio e poi dopo ci diciamo le ultime cose per salutarci. Allora, Nino, dimmi se non sbaglio, l'Unione Nazionale delle Donne Sahrawi, è lì che è stato registrato Nello scorso viaggio avete fatto un incontro con gli internazionali, con appunto la Casa delle Donne, con la Unione Nazionale delle Donne. Una rappresentante vi ha dapprima introdotto alle loro attività e successivamente c'è stato un momento di confronto, scambio con le persone che partecipavano. È in spagnolo, ma tuttavia è tradotto in italiano. Stiamo per sentire questo. Sì. Nino, è molto interessante secondo me la seconda parte... In modo particolare, su una questione, quella dell'aborto, che è stata toccata da alcune compagne che hanno domandato loro. Ci sono stati un paio di scambi, sì, che qual era? Sono ora molto interessanti. Non mi ricordo bene cosa avevano chiesto. Sostanzialmente, io l'azzardo, però anch'io a onor del vero, però mi pare che fosse qualcosa del tipo, ora lo riascoltiamo insieme, anzi, era qualcosa per cui fu risposto che non si pratica l'aborto in Sahara occidentale o nei campi profughi, sì, perché... e di fronte alle ragioni per cui fu domandato il che perché una forma di resistenza, fu risposto no? Sì, che la questione demografica è una forma di resistenza, anzi si scartarono dal posizionamento islamico, cioè dalla ragione islamica, non è per ragioni religiose, disse, mi pare, se non sbaglio, sì, sì, è vero. Innanzitutto per motivazioni appunto politiche, sì, perché se non figliano scompaiono i Sahrawi. E di fronte a questo mi pare che raccontassero anche come, nonostante questo, siano in una tendenza demografica decrescente a livello internazionale, sì, i Sahrawi. E quindi è legata a questa questione, insomma. Comunque, rispetto al nostro consueto punto di vista, sicuramente è uno scambio di interesse. Però, ecco, nel senso, va sempre contestualizzato, certo, nella disperazione, cioè di una condizione... cioè di essere non all'angolo, sotto tre angoli diversi e... comunque, cioè, certo, no, infatti, cioè non è, nel senso, questo aspetto resta sicuramente problematico, cioè il diritto dell'individuo rispetto a quello del popolo è... però loro non la mettevano sul cioè sono contro l'aborto, no, come è non proprio lo una cosa che è una questione che non c'è, sì, cioè so poche le persone che, almeno questo è quello che diceva lei, sì, che sì, comunque chiedono di abortire, cioè proprio una pratica che non... Ma vabbè, poi, in pieno stile occidentale non rubiamo la parola ad altre persone, certo, facciamolo dire a loro. Siamo giusto. Appunto, l'hai registrati apposta. Dunque, il primo dura 20 minuti, è la introduzione alle attività. Sentiamo nell'inframezzo una canzone, successivamente il momento di scambio. Tra l'altro, quest'anno organizzeranno il 10° congresso dell'Unione Nazionale delle Donne. Magari lo beccate, chissà. Speriamo. Di sicuro andremo anche... Ora lo stanno organizzando, ho letto, non si sa ancora quando sarà, però o questo o il prossimo viaggio. Sì. Staremo a vedere. Comunque, intanto sentiamo. Sì, appunto, e anche su questo interessante aspetto, comunque rimaniamo aggiornati. Sì. Ma noi ci salutiamo qua, direi. Salutiamo chi ci ascolta, salutiamo le radio sorelle. Diamo l'appuntamento al prossimo venerdì, come sempre, con il Ponte Radio. E qual è l'augurio che possiamo darvi? Sì. Dagli è tutta. Dagli è tutta, sì. Dagli è tutta. Allora, dagli è tutta. Dagli è tutta, gang, gang, gang. Dagli. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Siamo? Ci siamo. Hola, muy buenos días. Disculpa, sto un pochetto con le grippe. Un po' influenzata, si scusa. Dai la benvenuta al sede centrale della Unione Nazionale della Mujer Sahrawi. Dai il benvenuto alla sede centrale della Unione Nazionale delle Donne Sahrawi. Esta organización femenina, que el inicio de ello fue en 1974, después del inicio del Frente Polisario, 73. Sí, nosotros 74, el Polisario 73. Quindi dice che la fondazione del movimento è del 1974, che è un anno dopo la formazione del Frente Polisario, quindi ci corrisponde al 73. Esa organización surgió por la necesidad, claro, por el acompañamiento de la mujer saharaui. Esa organización representa a todas las mujeres saharaui, digamos, es un paraguas para todas las mujeres saharaui. Es igual aquí en los campamentos refugiados, en territorio ocupado, liberado, en diáspora. Allora, questa organizzazione è un'organizzazione che, dice lei, rappresenta un ombrello per tutte le donne, Sahrawi, sia quelle che sono negli accampamenti, che quelle che sono in territori occupati, che quelle che sono in diaspora. L'associazione è una e unica. Questa organizzazione tiene sus objetivos hay unos, por ejemplo, nacionales, internacionales. Lo de nacionales es acompañar a la mujer saharaui, empoderarla a todos los niveles, igual políticos, sociales, cultura, economía. A nivel internacional buscamos que llegamos voz con nuestro mensaje a nuestras aliadas, pero buscamos también como miembros, buscar por ser miembros de otras organizaciones mujeres a nivel mundial para intercambiar cultura, pero también para enseñar cómo es la resistencia de la mujer saharaui y su lucha por su independencia. Diciamo che il ruolo dell'associazione ha due direzioni. Una direzione che è quella interna, che serve appunto a dare un costante e sempre maggior presenza delle donne all'interno delle istituzioni, all'interno dell'economia, all'interno della società in generale. A livello esterno invece le direttrici sono due: una che riguarda la partecipazione delle donne all'interno delle donne sarebbe all'interno delle organizzazioni internazionali delle donne, ma anche portare un contributo all'interno delle stesse, raccontando quella che è la dinamica organizzativa interna delle donne sahrawi. En diciembre acabamos de celebrar 50 años de aniversario de la Unión Nacional después del inicio de ella. Hicimos una investigación sobre la lucha de la mujer saharaui a partir del colonialismo español de 1970 hasta el momento. Es un logro que pudo la mujer saharaui llegarlo o cumplir con su deber hacia su causa justa por su lucha y la resistencia. Quello che hanno fatto praticamente è una indagine su quello che è stato il ruolo e lo sviluppo della donna dal tempo del colonialismo fino recentemente, questa investigazione è stata fatta recentemente, dal tempo del colonialismo spagnolo fino ad oggi. Esta organización que es la UNMES, la Unión Nacional, en nombre de la Unión Nacional, en vez de decirlo todo largo, UNMES. L'acrónimo sí. Es UNMES. Sí. Entonces tenemos una estatua de código que nuestra ley, por ejemplo, es máxima institución que tenemos es el Congreso. De este Congreso se elige la secretaria general con sus grupos. Y es el grupo el que va a dirigir esta organización. Tienen también, son objetivos, depende de la necesidad, ahí surgen los departamentos. Cada departamento tiene un tema que trabajamos a través de este tema a nuestra sociedad, a las mujeres saharaui, a todos los niveles. Questa ci ha dato un po' una panoramica dell'architettura dell'organizzazione, dicendo che c'è un congresso dal quale viene la rappresentante, che ha un suo consiglio, e poi a seconda di tutte le tematiche esistono vari dipartimenti che si occupano delle tematiche di cui c'è necessità. Entonces, estos departamentos cada vez tenemos, se aumenta, pero luego también depende de la necesidad de la estrategia de la Unión Nacional. Por ejemplo, el último congreso se eligieron 10 departamentos, más el programa entre dos congresos y el código, la ley de la Unión Nacional. Entonces, en departamentos, por ejemplo, tenemos de relaciones exteriores y cooperación, tenemos, por ejemplo, lo de la cultura, tenemos la salud y asuntos familiares, tenemos lo de información y promoción de la mujer. Tenemos lo de la igualdad, tenemos derechos humanos, tenemos lo de informática. Entonces, son departamentos que nosotros salen de este sede central, sale el trabajo de la Unión Nacional para regional y para local. Hacemos una agenda de cada departamento de 3 meses con el modo que se puede lograr a través de sensibilizar, a través de conferencias, a través de encuentros, a través de varios temas que nosotras como organización trabajamos para nuestras bases, que son las mujeres a nivel local y a nivel de la daira y el barrio. Allora, a nivel, estamos hablando a nivel nacional, sí, de aquí local. Salen de aquí el programa todas, salen de aquí central para regional y luego local. Y internacional, internacional también. Es otra, sí. Otro sistema. Allora, qui ha fatto la lista di tutti i dipartimenti che avete capito che più o meno insomma sono uguali ai nostri, però quello che è importante è che tutto dice poi parte da qua per diffondere quelle che sono le linee strategiche che vengono appunto date dall'associazione per le varie tematiche dei dipartimenti. Questo però riguarda una divulgazione a livello degli accampamenti di queste informazioni. In quanto lo della partecipazione politica nel nostro governo, nostro segretariato del Frente Polisario, la Unione Nazionale di Mujer Sahrawi trabaja por campañas, siempre hacemos campañas para sensibilizar sobre la importancia de la participación de la mujer saharaui en los lugares de la toma de la decisión, aunque sea el Frente Polisario ha abierto desde el principio, ha abierto toda la posibilidad para que la mujer saharaui sea en estos lugares tan importantes para nosotras. Allora, loro fanno un lavoro sempre costantemente di sensibilizzazione per la partecipazione in collaborazione con la RASD, che ci tiene a sottolineare che fin dal principio ha previsto che la partecipazione delle donne Sahrawi fosse una possibilità concreta, e loro lavorano in questo senso sempre per aumentare, diciamo, la partecipazione delle stesse. Non sono puntualissimo nella traduzione, ma entonces lo que hacéis es sensibilizar las mujeres para que sepan que okay, quindi fanno tutte queste per portare le loro istanze y para que sepan que pueden participar activamente en la vida política. En este nuestro programa fija anual tenemos un encuentro a nivel internacional aquí, es encuentro para los cuadros de mujeres saharaui. Discutir varios temas entre nosotras. Entre estas, la tema de la participación política, pero otros temas también que nos importan a nosotras como mujeres por nuestra sociedad. Sí. Quindi uno dei temi centrali che portano ogni anno quando fanno questa conferenza che riunisce tutte le tematiche è proprio legato alla partecipazione, quindi come la donna Sahrawi può partecipare all'interno e con quali politiche. En este, por ejemplo, al mes pasado hemos logrado un buen por ciento en el Parlamento Saharaui, porque tenemos, por ejemplo, Parlamento Saharaui, tenemos 7 comités. En estos 7 hay 4 mujeres con responsables de estos comités. Entonces es un buen, pero también nuestra participación es 41,17 también en el Parlamento. All'interno del Parlamento dai numeri, quindi dice che il 41% del Parlamento Sahrawi è composto da donne, e dei 7 comitati ce ne sono 4, quindi la maggior parte che sono presieduti da donne. Entonces es un trabajo viene que siempre de nuestro esfuerzo que hacemos siempre hacia nuestras mujeres. Queríamos llegar lo de 50, pero estamos muy satisfechas como refugiadas que trabajamos aquí para levantar y acompañar nuestras instituciones, tenemos bastante cifra que más que otros países, sí, quizás, ¿me europeos. Dice che è molto orgogliosa, sono molto orgogliose, nonostante il loro obiettivo sia quello del 50% in questo momento, però dice appunto in comparazione anche con altri paesi, insomma, sono soddisfatte, anche se l'obiettivo è il 50%. In questo livello abbiamo anche un altro livello che è internazionale, che lavoriamo forte con le nostre aliate, le nostre homologas a livello mondiale. Per esempio, la Unione Nazionale è membro di PAU, che è l'Organizzazione di Mujeres Africanas. También somos miembros de mujeres jóvenes africanas Somos miembros de la marcha mundial y somos suplentes del continente africano, que nuestra representante es la compañera que se encarga del departamento de a nivel de cooperación y relaciones exteriores. Entonces somos miembros también de los Frentes Unidos y antiimperialismo y el fascismo. Somos miembros de FEDIM. Somos miembros de Mujeres Democráticas. Entonces, estamos buscando de nuestra participación con otras organizaciones a nivel mundial para que podamos llegar nuestro mensaje y enfocar sobre nuestra situación, pero mucho más en sobre la situación en que vive la mujer saharaui bajo la ocupación marroquí, el que se practica diariamente todo tipo de la violación y la violencia hacia la mujer saharaui a través del régimen marroquí. Allora, qui ha fatto una panoramica in generale su tutte le associazioni dove le donne sahrawi sono presenti, e ne ha fatte una serie di liste a livello internazionale. E ora la lista l'avete sentita, non mi ripeto. Però mi diceva che appunto sono anche membri dell'Unione delle Donne Africane, dove la signora supplente, quindi diciamo che è presente, incaricata per il continente africano e quindi per portare le istanze delle donne sahrawi. Questo strumento che hanno di presenza all'interno di tutti questi organismi è quello che serve anche per raccontare quello che accade alle donne all'interno dei territori occupati e tutte le violenze che subiscono le donne sahrawi all'interno dei territori occupati dal governo marocchino. Antes ayer hemos logrado hacer un comité entre la Unión Nacional de Mujeres Saharaui y las mujeres de Sudáfrica. Eso también un logro que 16 personas, 3 de aquí y 3 de ellas, es también un logro donde podemos también enfocar sobre nuestra situación en el continente africano, pero también la Unión Africana. Es una comisión entre los dos países. Sí. La Unione Nazionale e la Mujeres in Sudafrica. Quindi hanno creato giusto tre giorni fa, ieri l'altro, un'unione tra le donne africane e la Unione Nazionale in collaborazione con Sudafrica. Quindi anche questo è rappresentato da tre donne sudafricane tre donne sahrawi, e anche questo è uno strumento che rinforza, appunto, ci faceva un esempio, le relazioni e che riesce a portare le istanze all'interno di altre nazioni. Sappiamo anche, credo, mi permette di dire, sappiamo quello che rappresenta Sudafrica nel mondo, quindi a livello politico sicuramente va a aiutare molto. E quindi mi sono permesso di dire proprio per quello che rappresenta a livello internazionale per quanto riguarda appunto i diritti umani, la storia del Sudafrica, un'alleanza con il Sudafrica è sicuramente molto importante. In quanto a los días nacionales que nosotros siempre aquí hacemos, por ejemplo, tenemos un día especial para nosotras que es el 18 de febrero. Ese día nacional de la mujer saharaui viene haciendo por nuestra mártir Sheikh Ahmed Zain, que se cayó mártir en bombardeo de Modreiga a través de la tragedia que hizo Marruecos cuando el pueblo saharaui salió yendo a pie del miedo. Y de allí mismo que sabe que ellos utilizan en ese bombardeo el fósforo y el napalm, que es un prohibido a nivel mundial. Entonces esa chica era enfermera, casi poquitas enfermeras, no sé si son 3 o 4 a nivel del colonialismo español. Y entonces una de ellas que está curando ella misma los heridos y todo, y es el primer embarazo de ella. Salió a cabo de casarse y es el primer embarazo de ella. Entonces nosotros tomamos ese día especial para la mujer saharaui. Estaba embarazada. Embarazada, sí, murió. Sí, sí, sí, sí. Allora, loro hanno questo giorno che le rappresenta, che è il 18 febbraio. Il 18 febbraio perché? Perché in quella data, durante l'occupazione quando marocchina, quando vennero cacciati nel deserto i Sahrawi, questa donna, mi ripete il suo nome, per favore? Shea, che è un eroe nazionale, era una delle poche infermiere Sahrawi che esistevano a quel... E diceva che questa donna era una delle poche infermiere di allora, ce n'erano solo due o tre. In quel momento era incinta e lei si occupò di curare i bambini che appunto erano rimasti bruciati sotto i bombardamenti marocchini dal napalm e dal fosforo bianco, che erano appunto, ci teneva a sottolineare che erano armamenti proibiti, e lei cadde morta. Quindi è per questo che il 18 di febbraio è stato preso come giorno. Sì. Ora nel 8 di marzo stiamo preparando anche un atto che si va a celebrare qui con la marcia mondiale, che vanno a venire presentación y que se van a presentar este tipo de cada continente, viene como dos o tres. Ellas vienen a participar siempre en nuestros congresos, pero ahora viene especial para enfocar sobre la situación de la mujer saharaui y hacer el inicio de la sexta acción que se celebrará en Nepal el año que viene por la marcha mundial. Querían hacer ese inicio a partir de los campamentos aquí, inicio de la solidaridad con la mujer saharaui, la mujer de Palestina, de Sudán, etc. Entonces el 8 de marzo ahora vamos a recibir como 25 mujeres que vienen de... entonces esto mismo, ¿dónde podemos buscar, no? Con otros movimientos para enfocar sobre nuestra situación y nuestra lucha. Allora, ha parlato di questa iniziativa che avranno l'8 di marzo con queste donne appartenenti come loro alla Marcia Mondiale, che è un'altra organizzazione. E idealmente questa iniziativa servirà a far capire che la sesta edizione della Marcia, che in realtà partirà dal Nepal, idealmente partirà dai campi. Idealmente l'inizio è da qui, sì, però también de Palestina, però también, sì. Quindi in tutti i territori che hanno questo tipo di difficoltà, incluso la Palestina e il Sudan. Quindi idealmente fanno questa partenza da questi territori afflitti dalle difficoltà che conosciamo. Sí, eso es a nivel mundial, pero vamos a volver al interno aquí nuestro. Por ejemplo, en este sede central tenemos en cada campamento, cada wilaya tenemos una casa. Es específica y especial para las mujeres saharauis. Son espacios donde nosotras necesitamos practicar ahí nuestro trabajo. Nos encuentran allí mismo para dialogar entre nosotras a través de talleres, a través de conferencias, a través de encuentros, a través de muchos que nosotras hicimos allí para acercar el trabajo a nivel regional. Entonces, cada wilaya hay una casa. Quindi, al di là di questa che è la sede centrale, in ogni wilaya esiste una casa delle donne, dove appunto questo per avere una presenza più capillare. E anche queste hanno la funzione di essere luogo di ritrovo, luogo di lavoro, appunto, dove ci sono dei laboratori, dove ci sono delle iniziative, luogo di conferenze, e quindi ecco, è un'estensione, è una capillarizzazione dell'associazione. Sappiamo perfettamente che il popolo saharaui è rifugiato politicamente, non è rifugiato per comerne, per la necessità di comida, di tanta ricchezza che tiene il Sahara occidentale, quindi per questo mismo ni Marruecos, ni Estados Unidos, ni Francia querían soltar el Sahara Occidental. Entonces aquí también vivimos con la ayuda humanitaria, claro. Pero para lograr hacer ese tipo de trabajo necesitamos también unos proyectos. Entonces en estas casas siempre buscamos como hermanamiento, ¿no? Entre las casas de la Unión Nacional con otras casas a nivel de Italia o España o etcétera, para lograr hacer unos proyectos para que puedan ayudar estas mujeres en su trabajo. No sé si entre dos meses, tres meses pasados, vinieron una delegación de Italia y hablamos de mismo y montamos lo de armamento con un grupo que el mismo ciudad este viene, Abdullah, creo. Sí. Y quedamos con ellos que van a estudiar cómo se pueden. Ahora mismo dejo también este en vuestra mano a ver si nos ayudaron a apoyar también unos proyectos, aunque sean pequeños, para ayudar a las mujeres saharaui para cumplir también sus trabajos en las casas regionales. Está diciendo que all'interno de queste case que diceva prima, queste case que son presentes all'interno de la wilaya, loro propongono dei veri e propri gemellaggi con quello che sarebbe l'equivalente delle case delle donne, credo, e diceva giusto appunto che hanno avuto un incontro con vais a tenere un incontro o già avete tenuto? Non visitarono, hanno già avuto un incontro e quindi in questa occasione aprono, diciamo, la loro disponibilità, il loro interesse a sviluppare qualsiasi tipo di collaborazione tra queste case regionali e le case delle donne delle città da cui proveniamo, dei luoghi da cui proveniamo. Bueno, muchísimas gracias. Os dejo cualquier pregunta, cualquier. Sí, está dormida, ¿no? Yeah. una battuta di dirla voi. Ha parlato di tavoli tematici a livello istituzionale, volevo sapere più o meno quali fossero i temi trattati in questo momento, poi credo che cambino un po' con la stagionalità delle necessità, però in questo momento quali sono i temi dei tavoli di lavoro dei dipartimenti? Sì, usted habló de departamentos y de varios temas que tratáis y obviamente le dice, depende de la temporada, los temas seguramente van cambiando, siempre no son lo mismo. Entonces quiere saber cuáles son los temas que ahora están encima de la mesa y a los que estáis trabajando. Por eso mismo es los departamentos que te dije, es departamentos, por ejemplo, la salud y asuntos familiares, donde trabajamos sobre la salud de la mujer saharaui y los asuntos familiares de a través de otras promotoras que trabajan a nivel social, ¿me entiendes? Hay promotoras también que trabajan a nivel de salud. Derechos humanos, por ejemplo, trabajamos para enfocar sobre la situación de la mujer saharaui en territorio ocupado. La cultura, trabajamos sobre varios temas para que no se olvide la cultura del pueblo saharaui ni la de la mujer saharaui. Uh-huh. Hacerle seguimiento a través de... Allora, questi temi qui che t'ha detto per dire sul tema della relazione internazionale sono molto concentrate non sulla condizione delle donne all'interno dei territori occupati. La cultura invece è un mondo che mi sembra di capire che è molto ampio e che di temi ce n'hanno un sacco. E la salute, primero, come desarrollais ese tema, il tema di salute de... En la salud hacemos campañas por la salud de la mujer saharaui, de varios temas, de cáncer de mama, de ultro, de cremas, de todo, sí, seguimiento del bebé cuando nace, de la comida, eso tenemos también trabajo con médicos del mundo aquí, que trabajan también con nosotras en los mismos temas. Quindi direi sempre campagne di sensibilizzazione per quello che... Per esempio solamente de... sì. Okay. Poi ha detto che l'agenda tematica viene definita qui centralmente, poi diffusa nelle basi territoriali. Volevo sapere se queste basi poi hanno autonomia e discrezionalità su come agire, come muoversi sulle campagne, oppure viene definito tutto centralmente, anche i mezzi, i tempi, le modalità. Ok. Este es un poco institucional. Hemos dicho que aquí tenemos el corazón de la asociación y aquí se define lo que es la línea programas. Que se va el programa de las varias casas, las casas además de las filiales. Ella quiere saber si estas casas tienen una autonomía respecto a los tiempos de desarrollo de los temas, de objetivos y tal, o si todo está centralizado y eso es. Todo tenemos autonomía que se puede realizar ese trabajo, pero el trabajo sale de aquí. Pero por ejemplo él es el que ocupa, por ejemplo, de regional. Nosotras departamentos son 10 departamentos. Hay una gente que se hace cada departamento haga sus programas, porque el programa sale del programa que inicio del Congreso. Cada departamento haga su programa, pero cuando ella lo recibe, ella se puede aumentar y se puede hacer más, ¿me entiende? Como responsable con su grupo se puede aumentar. Pero solamente que tenemos que hacer una línea sola, igual para que podamos trabajar todas. Y tenemos información que nos hace un informe ellos al mes, un seguimiento regional hace un mes y lo mandan aquí y nosotros lo hacemos y mandamos. Pero hay un trabajo también de otro campo, que es, tenemos un departamento especial donde se une las mujeres de la Unión Nacional más de las mujeres institucionales, de la RASA. Ese departamento trabaja directamente con los ministerios donde hay programas, donde hay cualquier tema que tenemos que descartarla y trabajarla con las otras mujeres, no solamente a nivel regional o local, las dairas, sino también a nivel institucional, estatal. Sí. Poi, al di là dello spazio nel fronte in cui ha spiegato che c'è stata ricezione comunque delle istanze dell'Unione, se vengono fatte anche altre assemblee miste sulle tematiche femminili o vengono fatte soltanto assemblee separate, diciamo, delle donne? Separate intendi? Donne solo insieme o sono sempre le assemblee però, sono sempre divise? Sulle tematiche femminili. Sulle tematiche femminili, ok. Sobre los temas de las mujeres, quiere saber si quando se unen las mujeres de la asociación también tenéis la participación de hombres que participan en comprender y en participar a las reuniones que hacéis. Participan, pero no es mucho, porque nosotros trabajamos por nosotras mismas. Pero cuando hay actividad, también ellos vienen, ¿entiendes? Y ahí portan también sus ideas y el dialecto mismo de la mujer. Pero sí, participan, no tenemos nada cerrado. ¿Entiendes? La participación no es cerrada. Ha parlato delle case delle Wilaya, nelle case distrettuali, diciamo, e volevo sapere se al di là di luoghi di confronto, eccetera, fossero anche spazi protetti di quotidianità, diciamo, di intervento, di ascolto e di cura, nel caso ci fossero dei bisogni quotidiani di aiuto alle donne delle Wilaya. Le case regionali rappresentano, di alcune maniere, in alcuni casi specifici, anche unas casas de refugio para las mujeres árabes cuando hay algunos problemas a nivel personal de ellas y tienen algunos problemas con, no sé, podemos hacer un montón de ejemplos, dificultades. No tenemos este problema, es que no tenemos aquí. En primer lugar, el pueblo saharaui es un pueblo unido, ¿entiende? Aunque sea, por ejemplo, digamos, el divorcio es el problema grande que tiene a mundial, a nivel mundial. Aquí para nosotras mujeres no afecta el divorcio, no afecta a las mujeres saharauis. Al revés, quizás no sé si escucharon que la mujer saharaui cuando termina del divorcio haga una fiesta igual como esté casada. No, sí, no sabía. Sí, de 4 meses se puede hacer su fiesta normal. ¿Entiendes? Está libre perfectamente. Entonces, sus hijos y ella misma está también al lado de sus familiares, no lo van a rechazar, al revés, ¿entiendes? Entonces, este no tiene problema. Aunque sea tiene 5, 6, 7, se puede casar de nuevo, normal y feliz. Entonces, no tenemos la casa solamente para el empoderamiento de la mujer saharaui, para empoderarla, para acompañarla. In todo sentido, sì. Allora, la funzione delle case non è una casa, le case non sono di rifugio, sono dei luoghi dove la donna può prendere coscienza e può essere rinforzata la sua, il suo potere all'interno della società. E poi ha fatto una digressione sul tema del divorzio, che io ora non conoscevo tanto bene, cioè sapevo che si potevano divorziare, ma non sapevo che c'era anche una festa. Come la vedovanza. C'è una festa? Dopo quattro mesi divorziano, fanno una festa per celebrare la fine del matrimonio. Ma anche dopo che sono rimaste vedove, trascorso alcuni mesi dalla morte del marito, fanno una festa per per la morte. Ma, disculpa. Questo vos dice che mujeres non tiene problema de resolver en la casa, ¿ok? Ma los derechos de las mujeres nacieron ya en el Sahara Occidental o empezaron a mudar acá en los campamentos? Derecho. Los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres los tenemos desde el inicio, antes de la revolución, antes de todo. Ese viene de la sociedad. Porque la mujer saharaui, ella es el que ocupa de todo. El pueblo saharaui es nómado, sabemos perfectamente que es un pueblo que es nómado, ¿no? Su vida es. Pero el que ocupa de la casa, quien es como representa a la familia, representa, de la casa misma es la mujer. Aunque sea el hombre está ahí, el que da, toma la decisión, que despide, que no sé qué, el que hacen fiestas, que entiende, toda la mujer. Entonces es un derecho de la mujer saharaui misma en su familia primero. Luego ya están también. Y de los nacimientos de los derechos de las mujeres no cuando está... vino la revolución, apoyó ese derecho. No está conectado a la ocupación marroquí y a la guerra, más los derechos fueron antes. La mujer de la... que abajo del territorio ocupado, abajo del régimen marroquí, no tiene ningún derecho, ni para respirar, ni para estudiar, ni para saber si día ni si noche. Okay. Entonces, no. Claro. Sì. Potete introdurre? Sì. Io gli ho chiesto se lo sviluppo dei diritti femminili soprattutto fossero in qualche modo collegati alla situazione successiva all'occupazione marocchina o comunque se questi stessi diritti fossero già presenti per le donne quando vivevano nel Sahara occidentale. Lei mi ha detto che non c'è collegamento tra le due situazioni perché la situazione del popolo sahrawi e comunque delle donne era già di riconoscimento di diritti e di libertà alle donne stesse nel Sahara occidentale, perché talvolta ricolleghiamo il discorso che le donne hanno ruoli, hanno maggiori diritti perché magari gli uomini potevano essere maggiormente occupati per la guerra e quindi necessariamente la società veniva portata avanti dalle donne. Però lei dice invece che questa situazione era la stessa anche prima dell'occupazione marocchina. Scusate, c'ho Nadia al telefono. E se si può chiedere, Nadia? Se lo puoi chiedere, il diritto all'aborto esiste nella società e tra le donne sahrawi? Se si può chiedere, non so. Allora, ma chiedere a me. El aborto no, para nosotros no es algo, porque el embarazo aquí no es obligatorio. ¿Me entiendes? Si se puede embarazar, si no, ¿me entiendes? Pero nadie te obliga a hacerte embarazada, tampoco te obligan para abortar, para hacer abortos, ¿me entiendes? Aunque sea el aborto, es prohibido en el Islam, pero aquí, como pueblo también, somos poquitos, ¿me entiendes? Pero últimamente también estamos de verdad notando que no hay mucho como antes, sí. Nacimientos casi no hay, últimos años sí, entonces no sabemos de qué, pero no hay. Allora, la definizione dell'aborto non è prevista all'interno della società sahrawi, ma per un principio che riguarda il fatto che loro allora lei fa una premessa, dice nell'Islam è una questione che è proibita, come è proibita del resto anche nella nostra religione cattolica. Però non è che questa cosa qua sia collegata a questo, se no che nella loro società, diciamo, come non è negato il diritto di rimanere incinti, a quel punto non è negato, cioè come non è obbligatorio, dice, rimanere incinti, non è... siccome non è obbligatorio rimanere incinta, non è algo obbligatorio. Sì. Se poi si chiede tenere niño, sì, se non chiede, no è nada. Nadie te obbliga. Però c'è una questione che stanno notando, che negli ultimi anni è diminuito il numero di nascite, cioè stanno notando che la crescita demografica ha avuto un blocco e non sanno perché. Mientras que nosotros somos un pueblo luchando por su independencia, tenemos que tener muchos niños y niñas también, claro. ¿Me entiendes? Sí. Si no, vamos a quedar aquí embarcados. Entonces, quindi la crescita, forse per fine di risponderti, ecco, una forma di resistenza è anche il divieto dell'aborto. Anche non incoraggiare l'aborto è una... non l'avevo capito, non incoraggiarlo. Con il cuidado, claro, della madre e del niño, che sempre offre il fronte polisario, però noi anche, entendi? Nick, sì. Io volevo chiedere questa cosa. Abbiamo parlato di una lotta nazionale che si lega e dialoga con una lotta internazionale, no? Quindi c'è sia la capillarizzazione delle istanze qui che diciamo la partecipazione a una battaglia più grande e condivisa. Una delle problematiche più grandi che incontriamo come donne in Italia e Spagna a livello globale è quella del doppio carico di lavoro, no? Che è qualcosa su cui si insiste tanto proprio in ottica di parità di genere, quindi si lavora alla casa delle donne, si lavora nelle istituzioni, si fa qualsiasi tipo di lavoro e poi c'è il lavoro domestico a casa, no? Quindi è un doppio lavoro. Questo esiste anche qui, è una cosa che le donne riscontrano, quindi c'è un carico lavorativo, c'è un carico domestico che è sulle spalle delle donne o c'è un carico suddiviso? Che viene vissuto come un problema. Che per noi viene vissuto ovviamente come un problema. Che e siamo salvati. Sì, in quel senso. A nivel locale, che ha la associazione e la collaborazione che tiene con varie associazioni internazionali. Ahora, cuando ella está hablando ahora de unas instancias que las mujeres, por ejemplo en Italia, si hablamos de Italia y en general en Europa, es percibida como una falta de igualdad al interior de la sociedad misma italiana. O sea, el doble cargo de trabajo que las mujeres tienen en cuanto a los que tienen que hacer en la casa y a los que tienen que hacer trabajando. Obviamente hoy en día no es como antes, la sociedad digamos occidental, pero en general las mujeres, como sabéis, trabajan tan cual al hombre, a veces casi siempre diría el sueldo que ganan es más bajo de los que ganan el hombre, pero a nivel de cantidad de trabajo trabajan casi la misma hora que trabaja el hombre occidental. Y por eso se habla de un doble cargo de trabajo, en el sentido que la mujer tiene que cuidar la casa, tiene que cuidar a los niños, pero además tiene que trabajar afuera para que la economía de la familia salga bien. Y ese tema, que es un tema típicamente occidental, es un tema que tenéis en alguna forma distinta o igual o parecida o que comprendéis bien y no sé. Llego el mensaje. Sí. Para nosotras aquí como mujeres no podemos comparar entre nosotras y las mujeres de Italia, ni España, ni Estados Unidos, ni, etc. Somos mujeres voluntarias. Trabajamos por nuestra independencia. ¿Entiendes? Aquí no hay salario. Aquí buscamos incentivos. Sí, no hay salario. ¿Entiendes? Porque yo vengo por yo misma, yo tengo una causa que tengo que luchar. Tengo que cumplir con mi causa, ¿me entiendes? Que tengo que cumplir. Luego cuando yo me cumplo y sea mi territorio es liberado, es otra cosa. Podemos sí hablar de ahí la igualdad. Aunque sea aquí, todos somos iguales. Voluntarios, hombres y mujeres, vamos a la oficina, vamos al trabajo, todos corriendo para allá, para acá, todos igual. Hay una cosa así, que la mujer saharaui en la Jaima, quizás vosotras están alojadas en las Jaimas, van a ver la mujer trabaja y mueve más que el hombre o con el hijo, ¿qué? Pero es una cosa de nosotras mismas también. Nadie nos obliga como el aborto, ¿no? Nadie nos obliga porque somos responsables de esta familia. Cada mujer saharaui se siente que es responsable. Sí, mi marido se puede hacer té, se puede cocinar, se puede llevar los niños y todo, pero dentro yo misma no fío que él va a hacer lo que yo voy a hacer como mujer. ¿Entiendes? Entonces tenemos un poquito, estas cosas quizás vienen de nuestras compañeras visitantes o compañeros igual de la solidaridad que apoyen el pueblo saharaui siempre en la casa ven todas las mujeres, pero la igualdad aquí en cuanto a lo de el que ofrece el gobierno todos somos iguales aquí, ¿me entiendes? Pero el salario no hay incentivos que se ofrece para médico o para profesor o algo, pero no, no puede decirte que es salario. ¿Entiendes? Sí, sí. Ni llega a 200. Entonces, nadie va a trabajar con esto. Para diferenciar entre refugiados y a gente que viven bien, con su riqueza, viven en su país y todo. Gracias. Pero también es igual, tenemos que cuidar también siempre este nivel para que cuando la independencia seamos toda, trabajamos también la misma línea. Es el que trabaja la Unión Nacional sobre lo de la igualdad. Uh-huh. Sí. Se posso semplicemente fare un commento su questo, perché ho intanto grazie, ho capito, e però il punto per me non è legato a un fattore economico, cioè non è. C'è anche la questione del lavoro salariato e stipendiato meno, però è proprio una questione legata all'emancipazione della donna dal mio punto di vista umile e personale, cioè la condivisione del carico serve proprio per l'emancipazione della donna, perché affinché questa emancipazione si dia serve uno spazio. La luce. No, no, Ella dice que sí que comprende todo, pero más allá de la cuestión del sueldo, hablando de cargo de trabajo y hablando de emancipación, así como la percibe ella, una igualdad tan en la casa como en el cuidar a los criados, cómo criar los sí. niños, dice, representa desde su punto de vista una cuestión de igualdad y también de emancipación, así como lo percibe ella. Entonces, por eso quería decir si alguien tiene alguna duda sobre ese tema o simplemente si... No, es así, es la vida de nosotros normal, porque, por ejemplo, si ella va a estar en la Jaima cuidando a los niños o hacer su trabajo, por ejemplo, en la daira o el barrio y vuelve a su casa, su marido o su hijo está en la tienda para buscar dinero, o está en taxista para buscar dinero, o está en el frente luchando contra... Entonces es un poco que cada uno lucha por su... ¿Me entiendes? Pero no es nada que surge para la igualdad, esto no. Porque si ahora tenemos también varias mujeres que ya tienen tiendas también, como lo hombres. Sí, varias. Así cuando te vas, entonces nosotros, la Unión Nacional con la red vasca de unos años, de los 90, lograron hacer la economía, la independencia de la economía, para que la mujer saharaui sea independiente de su marido, su hijo, a través de microcréditos. Entonces, para que hacer cosas para ellas mismas. Entonces, estamos logrando de cada año, estamos haciendo cosas bien, perfectamente aquí, como refugiadas, que logramos por lo menos hacer independientes económicamente, aunque sea no todas las mujeres, pero hay buenas cifras en este sentido. ¿Tiendas están aquí en todas las wilayas? En todas las wilayas se encuentran mujeres sentadas en sus tiendas. Su jaima también. Teneva a sottolineare l'aspetto dell'emancipazione economica, però, che questa in realtà, attraverso questo progetto che hanno iniziato in collaborazione con... la comunità basca già negli anni 90 ha dato vita attraverso questo microcredito alla possibilità delle donne di indipendentizzarsi dal punto di vista economico, quindi questa non è una cosa che è accessibile ovviamente a tutte le donne, però ci teneva a sottolineare che il processo invece legato non alle questioni di tradizione è una prospettiva diversa, quindi ritornando all'aspetto economico, occhio, perché invece il lavoro lì lo stiamo facendo. Certo. Questo per dire che alle volte noi abbiamo un collegamento tra... In este campo esattamente che desde Corona nosotros non recibimos nada para hacer de nuevo lo de microcréditos porque han parado por lo desde Corona y lo único que apoya lo ANMES anteriormente son la Red Vasca o la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Andalucía, en Sevilla. Entonces, con este hay una estrategia que tiene la Unión Nacional. Por ejemplo, vamos a dar a ti 500 euros, por ejemplo, pero te voy a dar al año. Con este 500 euros tienes que hacer algo económico, ¿no? Con su hacemos con tu historia, con todo, y allí van todas las mujeres por el mes, hacen filas o colas allí, ¿entiendes? Uh-huh. Cuando tú terminas de este 500, tiene que pasarla a otra mujer para que también hacer su manera para que pueda hacer su economía. Entonces, pero esos 500 euros se basan sobre un proyecto o sí, un proyecto, un microcrédito. Microcrédito, sí, con el cual tú tienes que comprobar que vas a hacer algo con el dinero que te van a dar. Sí, sí, sí, sí, hacer seguimiento y van a dar vuelta dentro todo lo accampamento. Allora, loro ci hanno avuto questo microcredito, è andato in crisi naturalmente con il discorso Covid, però lo continuano a portare avanti l'associazione della rete vasca e un'associazione andalusa. Che per le donne che fanno parte dell'Unione dà la possibilità in maniera turnativa di andare a prendere questo microcredito per svolgere delle attività economiche che devono essere supportate però da un progetto. E chiaramente una volta che ti hai preso il credito devi aspettare che tocchi a qualcun altro. Ma quali attività economiche svolgono in un campo? Tiendas. Negozi. Siamo lavoratori di sartoria, insomma. Siamo la città sartoria, di Sirio. La città di Sirio fino a qualche anno fa. E ora il collettivo? Il collettivo con il Covid c'è solo un casino. Ok. Ciao, Marco. Sì, la pregunta. E con la Unión, hacen actividades con niñas y chicas también? Sì, mujeres jóvenes. Pero tenemos también en el Departamento de Cultura, ahí recibimos los niños para hacer reposo, para repasarlas, ¿no? Pero hacer canciones, cosas así. Departamento, dice ella, de salud, que hace campaña a las escuelas con las niñas y los niños, el tema de salud. Uh-huh. Io volevo chiedere l'ultima cosa se non c'è nessun altro, però visto che ho già chiesto. Ok. Una cosa che a me piace tantissimo qua è quello di cui ha parlato anche lei, no? Che è questo senso della famiglia, che non è solo una famiglia nucleare, ma una famiglia allargata, quindi proprio un senso di comunità molto forte, un tessuto sociale, no? Che invece da noi con la crescita e poi l'impennata del capitalismo si è tradotto anche in un disgregamento in questo tessuto sociale, quindi nell'individualismo anche all'interno delle famiglie, perciò nel momento in cui c'è un problema familiare è un problema che non viene gestito a livello comunitario, ma viene gestito a livello familiare. Qui è stato chiesto, sì, qui è stato chiesto se c'erano problemi di violenza domestica, è stato detto di no, quindi queste non sono case rifugio ma sono case delle donne e basta. E poi io, la mia domanda è, ma se invece questi problemi ci fossero, anche non problemi di violenza domestica, ma problemi diciamo di natura di insoddisfazione dal punto di vista lavorativo, oppure viene a mancare qualcuno e quindi ci sono dei bambini che rimangono orfani, eccetera, questo come viene gestito all'interno della comunità? Cioè nel momento in cui un problema in realtà sorge, come si gestisce? Allora, parto dall'ultima, dalla cosa vai, che hai vai, detto, che è pure riassunto, perché non è... Dalla domanda, il fuoco qual è della domanda? Il fuoco è capire se nel momento in cui questo tessuto sociale qui c'è, sì, no? Quindi c'è questo senso della famiglia, nel momento in cui sorge un problema all'interno di una casa, che sia di gestione di un minore che magari rimane non accompagnato, che sia un problema di violenza domestica anche non eclatante, come si gestisce? Cioè, come si buono condivide? Come si... tutti o rimane solo la donna a gestirselo per conto suo? Estamos, el asunto es, sabemos que la base de la familia saharaui es la familia, sino la pero no la familia como se imagina en Europa en general, o sea, padre, madre, hijos, sino que es un poco más largo, entonces se extiende a los primos, se extiende a los tíos, sí, a los abuelos, tatarabuelos y tal, entonces es una comprensión muy, muy larga. e nel momento mismo nel quale surge un problema, che sea, non sé, un hijo che se queda solo perché mueren los padres o la madre, o la madre, los padres. Nel momento en el cual, por ejemplo, puede pasar, hay una persona que tiene problema de algunas enfermedades mentales, pasa, y surge una violencia, que no tiene que ser una violencia grave, sino una violencia. La cosa, la gestión de la cosa, se hace en la familia, y eso es responsabilidad de la mujer, o si no, se extiende a algo más, que sea autoridad, que sea lo que sea. Desde el principio dije que somos un pueblo unidos, la sociedad saharaui es unida, aunque sea que fallezcan todos los familiares, no tenemos uno que se queda huérfano o se queda lo que fue el gobierno, no. Es algo para nosotros, no se hace dentro de la familia, aunque sea tiene tíos o abuelos o tatarabuelos, siempre se queda dentro de la familia, siempre. Te voy a dar ejemplo. Este tiene dos matrimonios. Sí, Un ejemplo. Tienes un niño que es el esposo de ella. Vino desde Mauritania, vino pequeño. Ella lo cuidó y lo trata como sus hijas, igual de sus hijas. Está estudiando con ella, sentado con ella, mientras su madre está en Mauritania, viva, no es muerta ni nada. La madre Sí, simplemente se divorció se con su divorció marido. y, se, Y ella también está y dejó viva. el hijo con su padre, normal, ¿me entiende? Entonces aquí no tenemos ese problema hasta el momento, no, no, no. Y la Y eso es muy feo cuando se escucha a alguien que es un niño que se queda o se queda, no, ¿me huérfano. entiendes? Huérfano, pero Sí. todos somos pasando a la familia siempre, dentro de la familia Dentro de siempre. la familia, el rol de la mujer siempre domina Domina la casa, la casa. siempre domina la familia, sì. Allora, per rispondere a te, è sempre la donna che è principalmente responsabile anche quando succedono questi fatti. Però poi lei faceva un esempio, dice, però partiamo anche dal presupposto che per noi il problema non esiste, perché siamo uniti nella lotta tanto quanto siamo uniti nella famiglia. Quindi se uno muore, se due muoiono, se un bimbo rimane orfano, c'è sempre una soluzione. Fa l'esempio che lei, che è una signora divorziata, sposata in seconde nozze con un marito che a sua volta divorziato, che ha avuto un figlio che è rimasto con lui, la moglie ancora vive e vive in Mauritania, lei l'ha tirato su con l'altra figlia che ha avuto e sono fratelli uguali e studiano insieme e sono trattati esattamente nello stesso modo. Quindi questa cosa qua per loro è quasi è strano pensare il contrario. Ma se posso chiedere una cosa, se puoi chiederla, ma in Italia ci sono molti casi di violenza domestica, qui ci sono oppure è molto ridotto dal momento che c'è appunto questa. No, non c'è problema, gliel'avevamo domandato e diceva che qui appunto non sono case rifugio, ma sono case di. Perché non ci sono Non c'è una nessun di problema con la violenza domestica. Sì, Il sì. tossico del mondo pregunta Oh, sobre sì, questo. sempre, tutta la delegazione che viene È un qui po' complicato. presente in este. Infatti, io Lo volevo tenemos bien grabados, no, no tiene problema. fare Pero no hay problema, de verdad que es una vida que nosotros que tenemos, por ejemplo, estamos abiertos también. Sí, Estamos abiertos, no, estamos abiertos al otro mundo. Porque la familia unida, por ejemplo, tenemos niños que estudian en Argelia. Van a traer otros idiomas, otras culturas. Tenemos que estudiar en España, lo mismo. Tenemos en Cuba, tenemos en Italia y todo. Esta es la familia, debe estar unidas y corregir a sus hijos. A corregir sus hijos para que no salen de allá ni acá, fuera de la cultura y del costumbre del pueblo saharaui y de su familia. Aunque sea, somos abiertos, como te dije ahora, tenemos mucho que niños que vienen de todo el mundo, pero tenemos también que cuidarlos, enseñarlos también y educarlos. ¿entiendes? Pero eso no significa que contra su libertad, ¿no? Pero hace falta cuidar también la sociedad, nuestra cultura y nuestra sociedad. Gracias. Gracias. Noi è importante avere un confronto con, anche per noi, no? Per condividere le questioni che, certo, che, sono, sì, che vogliamo, sì, portare anche noi, avere un confronto con altri punti di vista che per noi sono, insomma, allora, un arricchimento grande, ecco, quindi la volevo ringraziare. Una domanda. Io, la, va bene, volevo tradurre, sì, soltanto una cosa che secondo me, non so se l'avete colta, però lei l'ha detta due volte. Il ruolo della famiglia Sahrawi è quello anche di correggere le cose che vengono, perché loro dicono: noi siamo aperti a tutto, certo, parliamo tutte le lingue, portano tutte le culture, portano tutte, va bene tutto, però il nostro ruolo in questa società è quello di correggere cose che noi capiamo che esistono altrove, però è difendere la nostra identità, certo, in questo, certo, modo. Quindi la parola è correggere. Certo. Volevo chiedere una cosa, se anche qui vengono... Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15 in simultanea su Wombat, Onda Rossa, Neanderthal, Eustachio, Quar, Blackout, Spore.